GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Di nuovo buona domenica da Daniele Lettige e Rita Micoli. In questa breve edizione domenicale la cronaca in primo piano con il ritrovamento del corpo senza vita di un escursionista di cui si erano perse le tracce ieri in Alta Valtorre. Ancora il caso del ragazzino ustionato da una potente scarica elettrica o piscina e la musica con la grande attesa per il concerto dei Maneskin a Trieste questa sera. È stato dunque trovato morto l'escursionista che era disperso da ieri. Sentiamo il servizio. Dopo una notte e una mattina di ricerca è stato ritrovato il corpo senza vita dell'escursionista di 68 anni disperso in Alta Valtorre. L'uomo residente a Roma era partito da Monte Aperta ed era atteso da un compagno di cammino al rifugio Pian dei Ciclamini. Quest'ultimo, non vedendolo arrivare, ha dato l'allarme verso le 8 di sera. L'escursionista stava percorrendo il Cammino Celeste e deve essere scivolato in una zona particolarmente impervia e già nota agli esperti del soccorso alpino che lo hanno rinvenuto grazie all'ausilio delle squadre a piedi. Simone Marcuzzi, tecnico di ricerca del soccorso alpino di Udine. Si erano già verificati in passato altri incidenti nello stesso luogo. Il versante nord del Gran Monte presenta dei tratti molto ripidi, in particolare c'è un'ansa del sentiero che scendendo molte volte la gente sbaglia, l'escursionista sbaglia, anziché seguire il sentiero prosegue dritto, non fa l'ansa, e questo porta su un torrente con dei salti dove appunto si sono già verificati altri incidenti. La montagna sembra banale, ma ripeto, sul versante nord ha diversi tratti ripidi e abbastanza friabili. Sul posto anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, che coordina le indagini, i vigili del fuoco e l'elicottero della Protezione Civile. Nella notte era stato attivato anche l'elicottero dell'Aeronautica Militare, con termocamere e in grado di rintracciare i cellulari. Lusevera, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora continuiamo con la cronaca, con un aggiornamento sulle condizioni del ragazzino rimasto folgorato l'altra notte in stazione a Opicina. Starebbero migliorando le condizioni del 14enne rimasto folgorato nella notte di venerdì nella stazione di Opicina sul Carso Triestino dopo essersi arrampicato sulla scaletta di un vagone cisterna. Dopo le prime cure d'urgenza prestate all'ospedale di Cattinara è stato trasferito nelle ore successive al centro Grandi Ustionati di Verona dove si starebbe riprendendo. Secondo la versione fornita sull'accaduto dagli amici che erano con lui, i quattro ragazzi, tutti di Prosecco, stavano facendo un giro in bicicletta nella notte quando avrebbero sentito dei rumori sospetti. Pensando che si trattasse di un animale selvatico, forse un cinghiale, sono corsi dentro la stazione e il ragazzo avrebbe cercato riparo salendo sul convoglio. Ad assistere alla scossa elettrica sarebbe stato un ferroviere, mentre i ragazzi avrebbero soltanto sentito il tonfo del corpo dell'amico che cadeva in mezzo ai binari. La versione viene ritenuta attendibile dagli inquirenti, che non avrebbero rinvenuto materiali sospetti come, ad esempio, bombolette spray per fare graffiti. In ogni caso, come sottolineano tecnici del settore, per restare folgorati non è necessario toccare i fili elettrici perché la tensione, che è molto alta, può colpire anche a mezzo metro di distanza. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Vediamo ora la situazione del traffico, che è molto intenso anche questa mattina sulle autostrade della nostra regione. Al momento sulla 4 sono segnalate code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23, coda di un chilometro anche alla barriera dell'Isert, sempre in direzione Trieste. E ora il tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste 28 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. A Gorizia 30 gradi, a Udine Pordenone 29. A Tarvisio 27 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 27, a Forni di Sopra 24 e mezzo, a Sappada 23 e mezzo, sul Piancavallo 22 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari 20 gradi, sul Monte Zoncolan 19 gradi. Sulla costa a Lignano 29 gradi, a Lignano 28 gradi e mezzo, scusate, a Grado 29 gradi, temperatura del mare in entrambe le località di 28 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA: nelle prossime ore cielo in prevalenza sereno con venti a regime di brezza, sarà più caldo e probabilmente anche un po' più afoso. Sui monti al pomeriggio sarà possibile la formazione di locale e modesta nuvolosità. Domani cielo in prevalenza sereno con venti a regime di brezza, farà molto caldo e sarà afoso. Sui monti al pomeriggio possibile la formazione di un po' di nuvolosità, specie nei settori più interni al confine con il Cadore e il Comelico, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco. Siamo ora agli spettacoli. Il grande giorno dei Måneskin è arrivato. Il concerto della band romana, uno dei più attesi dell'estate triestina, prenderà il via stasera alle 21 allo Stadio Rocco. 26.000 i biglietti venduti, con tantissimi fan arrivati da tutto il Friuli Venezia Giulia, oltre che dalle altre regioni e dagli stati vicini. Per agevolare l'afflusso del pubblico sono stati organizzati 3 parcheggi di interscambio situati al Silos di Piazza Libertà, al centro commerciale Monte d'Oro di Muggia e al supermercato Eurospar di Via dell'Istria. Previsti anche servizi aggiuntivi del trasporto pubblico, con autobus che collegheranno i 3 parcheggi allo Stadio Rocco dalle ore 13.30 fino a dopo la conclusione del concerto. La viabilità è stata inoltre modificata in tutta la zona dello stadio a partire già da questa mattina, con l'introduzione di divieti temporanei di sosta e fermata. Sarà inoltre vietato il transito in un tratto di via Valmaura, in via Miani e in via dei Macelli. Infine, per tutta la giornata di oggi, il Museo della Risiera di San Sabba resterà chiuso al pubblico. E intanto ieri sera, sempre a Trieste, si è esibito Biagio Antonacci. Il servizio. Erano in 3.000 ieri sera a Trieste, in Piazza Unità, ad applaudire il Biagio Antonacci Estate, tour che il cantautore milanese e il suo gruppo di 5 musicisti stanno portando in giro per l'Italia. In scaletta le canzoni più note dell'artista, da Convivendo a Vivimi, fino a Non è stato subito, Non so più a chi credere e Iris. Incentrato tutto sulla musica, lo spettacolo per il quale Antonacci ha deciso di rinunciare a effetti speciali e maxi schermi per privilegiare il suono e il contatto con il pubblico. Pubblico che ieri, tra le sue fila, contava anche la cantante monfalconese Elisa, in aggiunta ad appassionati con qualche primavera in più, in una piazza in cui non si contavano posti liberi. Sul palco l'artista, assente da Trieste dal 2009, per tutta la durata del concerto si è esibito a piedi nudi e ha dimostrato un entusiasmo spontaneo per la musica, scegliendo versioni unplugged, cioè non amplificate ad alta potenza, anche per i brani meno recenti, ma per lui di rilievo, per i loro contenuti. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora alcuni altri appuntamenti di questa domenica. Prosegue il tour del Festival della Conoscenza Dialoghi. Alle 21 la rassegna farà tappa a Brda, in Slovenia, dove Villa Vipolze ospiterà il concerto della Gone with the Swing Big Band, orchestra jazz nata nel 1993 a Cormons. Il Festival a Prodi presenta Rumori di passi sul confine d'acqua, performance esperienziale e poetica che prevede una passeggiata spettacolo tra le vie di Trieste. Le rappresentazioni di oggi dopo quelle della mattina alle 20. Si chiude oggi anche il piccolo Opera Festival di Gorizia con il concerto Go Borderless Orchestra, il suono di due città. Una passeggiata musicale che avrà inizio alle 18.30 da Piazza Vittoria per proseguire alle 20 nella centrale Piazza Bevkov di Nova Gorizia. A esibirsi sarà la Go Borderless Orchestra, un progetto che raduna giovani strumentisti provenienti da Italia e Slovenia che si esibiranno in un repertorio a sorpresa. E spostiamoci ora in montagna, dove arrivano giovani, 20 giovani da tutta Italia. Sono stati selezionati per il training residenziale estivo di InnoValp, organizzato dalla cooperativa Cramars, da oggi a venerdì ad Arta Terme. I partecipanti, che hanno un'età tra i 18 e i 35 anni, si cimenteranno in un'esperienza immersiva allo scopo di immaginare e progettare azioni concrete a favore delle comunità di montagna. Tra i temi di lavoro: digitale e comunità intelligenti, cultura e servizi, ambiente e sostenibilità. I progetti elaborati verranno concretamente applicati in 3 specifici contesti delle Alpi e degli Appennini. I cani vanno tenuti sempre al guinzaglio nei parchi cittadini, ma anche nelle località di montagna. Lo ricorda il servizio di vigilanza di Federcaccia Friuli Venezia Giulia, che ha intensificato i controlli nelle malghe e nei rifugi a seguito delle sempre più numerose segnalazioni di residenti e turisti. La sanzione prevista per i trasgressori va da un minimo di 50 a un massimo di 200 euro. Grazie all'entrata in servizio di nuove guardie, Federcaccia sta anche svolgendo attività di controllo nelle tratte autostradali, in particolare negli autogrill, per ridurre il fenomeno dell'abbandono degli animali, che solitamente si intensifica nei mesi estivi. Il reato è previsto dal codice penale con ammende da 1.000 a 10.000 euro e l'arresto fino a un anno, reclusione da 3 a 18 mesi e sanzioni da 5.000 a 30.000 euro in caso invece di maltrattamenti. Era questa l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale. In regia Mauro Ciccarelli e Tommaso Vinoni, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con l'informazione della TGR, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. Da Daniele Letti, Gerita Micoli, grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.